Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lutto cittadino a Napoli per la morte di Ciro Esposito, il tifoso ferito a Roma prima della finale di Coppa Italia. Ora si temono vendette dei tifosi napoletani su quelli romanisti. Colpa dei giovani, colpa di Balotelli, sembra dire Buffon dopo il flop degli azzurri ai mondiali. Il capitano difende i vecchi della squadra, mentre il calcio italiano riflette sul dopo Prandelli e sul dopo Abete. All'Italia c'è l'accordo, Etihad acquisterà il 49% dell'ex compagnia di bandiera. Sugli esuberi presto un incontro con i sindacati, annuncia Lupi. Merkel torna sul patto di stabilità, dobbiamo usarne sia i limiti sia la flessibilità, dice la cancelliera. Domani vertice per scegliere il presidente della commissione. Manodopera a basso costo, il fornitore è la Camorra, arrestati 7 imprenditori abruzzesi coinvolti nei lavori per la ricostruzione dell'Aquila. Violente piogge e allagamenti in gran parte della Lombardia, esonda il Seveso a Milano dove ieri è piovuto dentro la stazione centrale, ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Bergamo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 via SMS, scrivendomi su Twitter se volete, Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, c'è anche l'email, effettogiorno@radio24.it. In apertura la morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli, ferito a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia. Un eroe civile morto per salvare altri tifosi del Napoli. Così i familiari di Ciro Esposito ricordano il giovane partenopeo ferito con un colpo d'arma da fuoco prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina fuori dallo Stadio Olimpico il 3 maggio scorso. Ora la salma del ragazzo morto nella notte al Policlinico Gemelli dopo oltre 50 giorni di ricovero e 10 operazioni si trova all'Istituto di Medicina Legale dell'Umberto I per l'autopsia. Dopo la richiesta di lutto nazionale da parte di uno dei legali della famiglia, Damiano De Rosa, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, su Twitter ha annunciato che a Napoli sarà proclamato il lutto cittadino per dire no al binomio calcio-violenza. Per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, la scomparsa di Ciro Esposito è una tragedia che deve far riflettere. Intanto, mentre i familiari chiedono che non si faccia violenza nel suo nome, in attesa di riportarlo al più presto a casa, si aggrava la posizione di Daniele De Santis, accusato di aver sparato. L'ipotesi di reato è ora quella di omicidio volontario. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nonostante gli appelli alla calma da parte della famiglia di Ciro Esposito, le forze dell'ordine restano in allerta. Nella capitale si temono infatti ancora possibili rappresaglie da parte degli ultras del Napoli. Per questo motivo, nelle prossime ore, Daniele De Santis, l'ex capo ultra della Roma, accusato di aver fatto fuoco contro il giovane tifoso napoletano, dovrebbe essere trasferito in una struttura protetta. Anche lui, ferito negli scontri del 3 maggio, De Santis è detenuto in un reparto del Policlinico Umberto I, dove oggi incontrerà il suo avvocato. Nel frattempo, dopo le polemiche che hanno coinvolto anche diverse istituzioni, il pacchetto di interventi contro il tifo violento, annunciato dal governo proprio dopo i fatti del 3 maggio, venerdì dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Fra le misure previste ci sono l'estensione del DASPO fino a 8 anni per i recidivi, il DASPO preventivo e di gruppo e un maggior uso di telecamere e steward all'interno degli stadi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E più tardi, stiamo cercando di collegarci, non siamo ancora certi, col sindaco di Napoli, De Magistris, per parlare anche di questo. Veniamo però al Brasile, alla pessima prova dell'Italia ai mondiali, la cronaca del giorno dopo che riguarda anche il futuro della nazionale, a chi sarà affidata, chi sarà a capo della FIGC. A proposito di tutto questo, stanno girando moltissime battute su Twitter, la migliore che abbiamo trovato al momento di Cristiano Fattorini è un mondiale mordi e fuggi, con riferimento chiaramente al morso di Suarez a Chiellini. Intanto il nostro inviato Dario Ricci. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, da Rita Curusa, siamo tornati alla base. Questo giorno dopo com'è? Triste naturalmente, immagino. Beh, sì, sicuramente è triste per il risultato sportivo, per come è avvenuto, per quella grande tragicommedia che è stata la partita di ieri, perché poi alla Caporetto si è sommato il terremoto, come ricordavi, insomma il KO sul campo che già da solo sarebbe bastato, c'è stato poi il terremoto delle dimissioni definite irrevocabili di Cesare Prandelli e del presidente Abete, quindi un calcio italiano che si ritrova all'anno zero di fatto, sia in termini di come risultati che come organigramma tecnico federale da ricostruire. Allora Dario, torneremo a collegarci con te, sentiremo altre voci e poi ci faremo due chiacchiere anche con il nostro Dario Ceccarelli più avanti nel corso di Effetto Giorno. Una piccola precisazione agli ascoltatori che scrivono a proposito dell'espressione eroe civile utilizzata per il tifoso del Napoli che è morto dopo essere stato ferito prima della finale di Coppa Italia. Forse non avete ascoltato bene il servizio, l'espressione eroe civile, ci state scrivendo in molti, è stata utilizzata dalla famiglia del tifoso e quindi non è un'espressione che abbiamo usato noi. Questo giusto per chiarire. Intanto parliamo di Alitalia perché siamo a quanto pare alla stretta finale. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buongiorno, è così? Buongiorno, un passo avanti le due compagnie. In realtà gli annunci della stretta finale sono interminabili perché dall'inizio di giugno che l'Alitalia ha già fatto due consigli di amministrazione, ogni volta ha detto che aveva approvato la proposta ultima di Etihad con le condizioni fissate, e oggi c'è stato un ulteriore annuncio, questa volta congiunto. Le due compagnie dicono che le condizioni sono state accettate da entrambe le parti e si passerà al negoziato finale per l'ingresso di Etihad col 49% e nell'Alitalia, in realtà in una nuova compagnia, una nuova Alitalia. Naturalmente c'è un negoziato che potrebbe durare ancora un mese e ci sono due punti non ancora risolti: gli esuberi, c'è una trattativa col sindacato, 2251 lavoratori che Etihad vuole vengano espulsi definitivamente, non con ammortizzatori a rotazione, e il tema del debito con le banche che non è ancora del tutto risolto. E naturalmente su tutto questo, in particolare sul nodo degli esuberi, ci saranno degli incontri nei prossimi giorni, no Gianni? Ne ha parlato lo stesso ministro Lupi, se non sbaglio, con Poletti ovviamente, il ministro competente. Sì, ci sono già stati degli incontri la scorsa settimana e siccome è appena partita la strada, questo punto non è ancora risolto e credo sarà un po' più difficile di come era stato messo in cantiere, perché essendo personale che Etihad non vuole rimanga, quindi dovrebbero essere messi in cassa integrazione a zero ore, poi in mobilità, quindi diciamo senza protezione. Ci sono già stati degli altri esuberi all'Alitalia, a parte 7.000 e più del 2008 della vecchia Alitalia, quindi è un punto che non è facile da risolvere, diciamo, fa parte dei punti aperti. Allora grazie intanto a Gianni Dragoni e qua vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto saluto Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo nuove dichiarazioni sul patto di stabilità, sembrano alternarsi. L'altro ieri Merkel, ieri Weidmann e il ministro Schäuble, oggi di nuovo Merkel che dice bisogna usare sia i limiti che la flessibilità del patto di stabilità. Ci vuoi dare un po' di chiarezza su che cosa sta succedendo a Berlino e se c'è un dibattito veramente aperto oppure una sorta di gioco delle parti? Il sospetto che il dibattito non ci sia, nel senso che in realtà dicono poi tutti la stessa cosa, magari con dei toni leggermente diversi, e la posizione tedesca nella sostanza non è cambiata, appunto, se non magari un po' nel tono. E la posizione tedesca è che c'è un patto di stabilità che va rispettato e che non verrà cambiato, non ci sono assolutamente margini per questo, però dentro il patto esistente ci sono già delle clausole che consentono di avere maggior flessibilità, come ottenere per esempio dei rinvii nel raggiungimento del deficit oppure in qualche modo fare questo scambio, diciamo, con delle riforme, cioè chi fa riforme può in qualche modo ottenere maggior flessibilità. Quindi flessibilità sì, ma in cambio di qualcosa, quindi il rigore fiscale e le riforme strutturali. Questa è la posizione tedesca, quindi c'è se vogliamo un'apertura sulla flessibilità, ma non gratis in un certo senso. In questo momento quello che preoccupa soprattutto la Germania è la posizione della Francia, perché dicono i tedeschi, i francesi che insieme all'Italia sono i primi a spingere per queste modifiche del patto, comunque per avere più margini di manovra, sono anche quelli che già hanno avuto almeno due rinvii ottenimento, sul conseguimento del deficit, però non li hanno assolutamente usati per fare nessuna riforma. Ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli anche per questa chiarezza sulle posizioni che circolano a Berlino, mentre invece ancora non abbiamo chiarezza su quelle che saranno le nomine in Europa. Di certo sappiamo che domani su questo c'è un vertice. 1000 giorni per cambiare l'Italia e guadagnare così flessibilità sui conti. È un biglietto da visita fatto di prudenza sui tempi, ma determinazione sugli obiettivi, quello con cui Matteo Renzi si presenta al Consiglio europeo che si apre domani. Sul tavolo dei capi di Stato e di Governo, le nomine nei posti chiave di Bruxelles e le linee guida della politica comunitaria dei prossimi 5 anni. Sul fronte dei vincoli di bilancio, oggi la Merkel ha in qualche modo teso la mano a paesi come l'Italia, dicendo che del patto di stabilità vanno usati sia i limiti sia gli spazi di flessibilità. D'altronde la cancelliera ha bisogno anche dell'appoggio italiano per far passare lo schema che dovrebbe portare il popolare Juncker alla testa della Commissione e il socialista Schulz alla guida del Parlamento. Renzi, che in mattinata ha incontrato il capo dello Stato napoletano, sembra pronto a dare il via libera a questi due nomi, ma chiede che si esca dal vertice con un pacchetto di nomine che diano anche un segno di novità rispetto al passato. Il governo punta forte sul ministro Mogherini per la carica di alto rappresentante della politica europea e vicepresidente della Commissione. Da domani via le trattative finali alla ricerca di uno dei tanti faticosi compromessi di cui è costellata la storia dell'Europa. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E chissà se si arriverà ad un qualche compromesso tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle riforme, anche se ci sentiamo di dubitarne. Però facciamo il punto con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, l'appuntamento alle 14.30 nella sala della terza commissione esteri della Camera, 5 Stelle e Democratici seduti gli uni di fronte agli altri si confronteranno in streaming sulla legge elettorale, un vertice come sappiamo molto atteso dopo la svolta impressa qualche settimana fa da Grillo quando decise di aprire il dialogo, e se sarà davvero un cambio di passo solo tattica si vedrà solo a partire da oggi. La delegazione grillina sarà composta da Danilo Toninelli che ha curato la proposta di riforma elettorale del Movimento, il vicepresidente della Camera Di Maio, i due capigruppo Brescia e Buccarella, così scrive il blog di Grillo, dunque non ci saranno né l'ex comico né Roberto Casaleggio. Per il PD la delegazione non è stata annunciata formalmente, ma dovrebbero esserci i capigruppo di Camera e Senato Zanda e Speranza, i vice segretari Guerini e Serracchiani, non dovrebbe partecipare Renzi, anche se Palazzo Chigi né conferma né smentisce la sua assenza, che invece viene data per certa dal blog di Grillo. Dunque un incontro molto probabilmente a meno di sorpresa in tono minore, che secondo molti difficilmente potrà segnare la svolta. Tra l'altro il clima che lo precede non è di migliori dopo gli insulti sessisti comparsi ieri sulla pagina Facebook di Grillo nei confronti del ministro Boschi, gli attacchi al DDL di riforma definito una porcata e le polemiche sulle immunità. Sul tavolo poi ricordiamo ci sono due proposte piuttosto distanti tra loro, da una parte l'Italicum, frutto del cosiddetto patto del Nazareno, a vocazione maggioritaria, dall'altra il Democratellum, proposto dalle 5 Stelle e votato dalla rete, una sorta di proporzionale con forti correzioni, quindi staremo a vedere. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi, quindi grande attesa per questo streaming. Adesso ci occupiamo di eutanasia, perché in Francia si torna a parlare di tutto questo, o si parla, se ne parla perché innanzitutto è arrivata una sentenza poco fa, è stato prosciolto Nicolas Bonmaison, accusato di aver provocato la morte di 7 pazienti in stato terminale, ma se ne parla anche perché una donna ha chiesto l'interruzione delle cure per un uomo tetraplegico, Vincent Lambert. Ebbene, il Consiglio d'Europa, la Corte di Giustizia europea oggi ha bloccato una decisione presa dal Consiglio di Stato francese. Sentiamo la storia. Dal 2008, da quando rimase vittima di un incidente di motocicletta, è diventato il simbolo del dibattito in Francia sull'eutanasia, una pratica che nel paese non è legale e che durante la campagna elettorale il futuro presidente Hollande promise di autorizzare. I medici dell'ospedale di Reims, dove Vincent Lambert è ricoverato e alimentato artificialmente, avevano chiesto con l'avallo della moglie e di altri familiari di interrompere le cure in base ad una legge che vieta l'accanimento terapeutico, ottenendo l'ok dal Consiglio di Stato francese. Una sentenza che però è già stata sospesa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sollecitata dai genitori di Vincent, da sempre contraria ad applicare l'eutanasia passiva. La Corte ha anche disposto il divieto di spostare l'uomo dall'ospedale in cui è ricoverato. I genitori infatti temono che il figlio possa essere trasferito in Belgio, paese dove l'eutanasia è legale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ma ci spostiamo in Libia, dove oggi si vota. Innanzitutto saluto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che tra poco tra l'altro andrà nel paese, e non è la prima volta per lui. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ti chiedo di aspettare ancora un attimo in linea, sentiamo cosa succede sulle strade e poi parleremo con te. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lutto cittadino a Napoli per la morte di Ciro Esposito, il tifoso ferito a Roma prima della finale di Coppa Italia. Ora si temono vendette dei tifosi napoletani. Colpa dei giovani, sembra dire Buffon, dopo il flop degli azzurri. Ne parleremo e ascolteremo la sua voce tra un attimo. All'Italia c'è l'accordo, Etihad acquisterà il 49% dell'ex compagnia di bandiera. Manodopera a basso costo, il fornitore e la camorra, arrestati 7 imprenditori abruzzesi coinvolti nei lavori per la ricostruzione dell'Aquila. E siamo a parlare di Libia, perché oggi si vota, naturalmente con un alto grado di tensione, un voto che ci riguarda moltissimo, non solamente perché è la nostra sponda sud, non solamente per i legami che abbiamo con quel paese, anche solamente energetici, ma anche perché è il luogo da dove partono praticamente tutti i migranti che arrivano sulle nostre coste. Alberto Negri, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, hai detto bene, Simone. Purtroppo la Libia era un paese che un tempo produceva 1,5 milioni di barili di petrolio, oggi ne produce poco più di 100.000, e dalla Libia proviene oltre il 70% dei migranti clandestini in Italia, quindi è un tassello fondamentale dal punto di vista economico e della sicurezza per il nostro paese, ma sembra che l'Europa ci abbia un po' lasciato, come dire, ci abbia un po' abbandonato su questo fronte, perché la missione Mare Nostrum dell'Italia non è sostenuta, sì, a sufficienza dagli europei per poter essere veramente un elemento di stabilizzazione del paese. Questo sicuramente, tanto è vero che il governo ha deciso di porlo come uno dei punti centrali, no, del semestre europeo. Ti voglio chiedere che cosa ci si attende da queste elezioni, Alberto. Beh, dalle elezioni di solito ci si attende in maniera ottimistica una certa stabilità. Beh, questo non sarà il caso. Tra l'altro andranno a votare forse 1,5 milioni di libici, circa la metà di quelli che sono andati a votare nel 2012, proprio per le difficoltà cui accennavi prima, cioè il paese è in gran parte fuori controllo e quindi in molte zone della Libia non si voterà o si voterà in maniera molto ridotta. In più il paese è spaccato in due geograficamente, tra Tripolitania e Cirenaica, le due regioni maggiori, e poi spaccato al suo interno, tra fronti contrapposti, non solo e non tanto quello tra islamici e antislamici, ma quello tra rivoluzionari, cioè che sosterrebbero ancora dei cambiamenti, e controrivoluzionari, cioè quelli che vorrebbero un ritorno all'ordine in un paese precipitato nel caos. Grazie Alberto, e poi ti sentiremo nei prossimi giorni per commentare l'esito delle elezioni. Allora, effetto giorno non è un jukebox di notizie, però ci è arrivato un sms a proposito di una notizia che in realtà avevamo già deciso di dare e che ci racconta di cinema. Ehi bionda! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana! Ed è con dispiacere che diamo questa notizia, anche se la sua vita è stata lunga e anche bella. Si è spento a 98 anni l'attore Eli Wallach, la voce naturalmente doppiata che avete sentito è il buono, il brutto e il cattivo, è il brutto del buono, il brutto e il cattivo. Aveva esordito sul grande schermo con il film Baby Doll, ma ad imporlo all'attenzione internazionale era esattamente questo classico firmato da Sergio Leone con le musiche di Ennio Morricone che sentiamo in sottofondo. Wallach ha partecipato ad oltre 80 film, tra cui un altro cult come I Magnifici 7. Nel 2011 venne premiato con l'Oscar alla carriera. E noi torniamo a parlare di nazionale. Vogliamo partire però da queste parole. Sono parole pronunciate da Dino Zoff, oggi sentiamo proprio due portieri, tra l'altro, due portieroni. Parole pronunciate da Dino Zoff questa mattina, intervenuto a Mix 24. Critiche, c'è sono sempre situazioni che vanno a finire con delle sconfitte, con dei cambiamenti. Mi sembra tutto così enfatico, così esagerato, anche le parole di Prandelli sulle accuse. Cazzo, io sono stato con Beazzotta, aveva ricevuto delle accuse altro che queste. Così dunque Dino Zoff, Dario Ceccarelli, poi lui è un tipo, ciao, buongiorno. Buongiorno, Simone. Lui tipo compassato, queste sceneggiate non gli piacciono. Sì, no? Proprio si vede, ha quasi detto un'espressione, era un po' irritato. È quasi sfuggita. Era un po' irritato. Sì, in questa vicenda di sfascio, fine primatura di un ciclo, c'è anche questo aspetto nuovo, no? Che un commissario tecnico, Prandelli nel caso, subito dopo la sconfitta dice basta, me ne vado. Ecco, questo ok per quanto riguarda la questione dell'aspetto tecnico, che ci sta, perché i cambi sbagliati, un caos tattico, tutto quello che è successo, insomma, è giusto che è giusto e doveroso, sembra quasi un segretario del PD quando si perde, però sulla questione dei soldi, ad esempio, come si è lamentato lui perché gli hanno fatto qualche punzecchiatura per il super contratto, insomma, sono cose che ci stanno nel calcio. Un grande allenatore deve saperle incassare, ecco, nel senso ampio del termine. Quindi in questo senso capisco la sorpresa di Zoff, ecco, anche se è vero che è nel personaggio Prandelli, il suo codice etico l'ha applicato anche a se stesso. Ecco. Senti Dario Ricci, siamo di nuovo in collegamento con te dal Brasile, tu che hai un po' il polso, no, di quello che è successo in questi giorni in casa azzurri, per così dire. Questo trovi che ci sia stata un'eccessiva drammatizzazione di tutto questo, una mossa giusta da parte di Prandelli, come viene letta anche dai colleghi con i quali parli quotidianamente? Beh, intanto Simone, vale la pena ricordare che c'era stato anche un altro CT che si era dimesso la sera stessa di una sconfitta, e questo era stato Dino Zoff, proprio perché in seguito alla sconfitta dolorosa nella finale degli europei contro la Francia, Euro 2000, vi ricordate la famosa battuta di Berlusconi che gli aveva rimproverato di non aver marcato Zidane con Gattuso, e Zoff si dimise seduta stante. Quindi insomma, evidentemente quando poi si sta su quella panchina anche i più calmi possono perdere il piede sulla frizione. Sì. Detto questo, sicuramente Prandelli ha anticipato un dibattito che era già nato nella pancia dello stadio Das Dunas, perché tutti, di fronte al modo in cui è arrivato questa debacle, ci si interrogava sul fatto che quel contratto che sarebbe dovuto arrivare a Francia 2016, come sarebbe potuto continuare, visto che soprattutto il dato che è emerso da questo mondiale è che si è sfaldata l'idea di squadra che aveva costruito Prandelli per tanti motivi, proprio anche, come ricordava Dario, per quel codice etico che probabilmente Prandelli ha sempre applicato un po' secondo suo giudizio e che non è stato poi compreso, e poi per la frattura fra i vecchi e i giovani, evidentemente questo passaggio di valori azzurri non ha funzionato. Ecco, proprio su questo ieri ha parlato Gigi Buffon abbastanza duramente, sentiamolo, va. Spesso e volentieri si sente dire, come è giusto che sia, che c'è bisogno di ricambi, che Pirlo è vecchio, che Buffon è vecchio, che Bazzagli è vecchio, che De Rossi è vecchio, che Tizio è vecchio. Poi alla fine la verità è che quando c'è da tirare la carretta, i De Rossi, Pirlo, i Bazzagli, Chiellini, Buffon sono sempre in prima fila, no? E per cui io penso che bisognerebbe rispettare un po' di più loro, non per quello che sono stati, ma per quelli che sono ancora adesso e per quello che rappresentano adesso, in questo momento, in Italia calcistica. Così Buffon, Dario Ceccarelli. Insomma, chiaramente i destinatari sono, beh, in primis Ballotelli, perché poi anche alla fine pare che quando Pirlo ha fatto il discorso d'addio finale è arrivato in ritardo, insomma, tutte queste sue le ballottellate che fa sempre, no? E poi forse anche gli altri, perché lo stesso Immobile non è che abbia fatto faville, ma probabilmente questo discorso riporta a quello che è il movimento, il rinnovamento del calcio italiano, che c'è una generazione che non riesce a subentrare, che è meno meno dotata dal punto di vista sia tecnico, qualitativo e anche morale, forse non ha lo stesso cuore o non è cresciuta con quell'esperienza. E qui tocca un tasto importantissimo, perché è quello di un calcio che sta impoverendo, italiano che sta impoverendosi sempre più. Questo è un tema e sarà un tema da affrontare nelle prossime settimane. Io intanto ringrazio te e ringrazio il nostro Dario Ricci in collegamento dal Brasile, e passiamo ad un altro argomento importante, l'altro argomento di giornata, anzi quello con il quale abbiamo aperto effetto giorno, ed è la morte di Ciro Esposito, il tifoso ferito a Roma prima della finale di Coppa Italia. Saluto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ci ha raggiunto, grazie di aver accettato il nostro invito. De Magistris, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, al di là della proclamazione del lutto cittadino, fatto che abbiamo già riferito, io vorrei capire se lei teme, conoscendo più o meno il polso della città, che vi possano essere, diciamo così, delle ritorsioni nei confronti dei tifosi romanisti. Ma io ho straordinariamente apprezzato, sin dalle ore immediatamente successive a quel tragico giorno, le dichiarazioni dei familiari di Ciro, le quali ci sta associando tutta la città e anche noi, se no alla violenza in modo assolutamente forte come messaggio, e nello stesso modo, con la stessa forza, sì alla giustizia. Cioè, Napoli su questa vicenda ha sede di giustizia, i familiari ma anche la città, cioè capire che cosa è accaduto in quel giorno tragico, quindi aspettiamo con rispetto le indagini della magistratura, ma aspettiamo anche che il governo ci dica se è andato tutto come doveva andare. Io penso di no. Quella giornata, è stato gestito pessimamente, secondo lei, l'ordine pubblico in quel giorno? Cioè, ci sono responsabilità del prefetto e del questore? Guardi, non è un compito mio. Io da sindaco di Napoli ho il diritto dovere di pretendere cosa è accaduto. Se vuole una mia valutazione, perché io quel giorno sono andato allo stadio, sono rimasto molto colpito quando dopo le prime ore ho sentito dire anche da chi ricopriva ruoli di responsabilità che era andato tutto bene. L'impressione mia, ma è più di un'impressione, è che ci siano cose anche gravi che non siano andate sotto il profilo dell'ordine pubblico. Poi del resto, quando un ragazzo viene sparato in quel modo, in quel contesto, con una dinamica francamente sconcertante, io credo che delle responsabilità in tema di ordine pubblico ci siano. Ovviamente non sta a me accertarle. Oggi Napoli è colpita a lutto, si stringe attorno ai familiari, dice no alla violenza, quindi mi auguro veramente che non ci sia nessuno, nemmeno una persona che possa agire con violenza. Il modo migliore per ricordare Ciro e cercare di sradicare per sempre questo rapporto che è diventato insopportabile tra calcio e violenza. Quindi veramente è il modo migliore per ricordare questo giovane napoletano, cercare di dimostrare tutti, non solo ovviamente i napoletani, ma tutti gli italiani, che bisogna dire un basta forte alla violenza, perché veramente io sono sconvolto di questa giornata. Io l'ho anche incontrato a Cire, trovo veramente inaccettabile che si possa essere arrivati a tanto. Chiudo tornando alla domanda che le ho fatto inizialmente. Insomma, io capisco, lei giustamente dice no alla violenza, siamo perfettamente d'accordo, e però vorrei capire, ripeto, dal polso che ha della città, se rischi ce ne sono oppure no. Guardi, io non è che sono, insomma, non posso prevedere quello che accade. La città è arrabbiata, su questo non c'è dubbio, la città è arrabbiata, ma ha anche una grande dignità e una grande fierezza. Io ho ragione di ritenere che Napoli possa reagire con grande senso di responsabilità, che sono le parole dei familiari di Ciro, le parole del sindaco e le parole dei napoletani in questo momento. Poi sa, non è che possiamo prevedere quello che accade domani, però io ho ragione di ritenere che Napoli debba dare e possa dare una prova di grande maturità, perché poi non dimentichiamoci che è una città che nelle ore immediatamente successive al fatto è stata messa in modo ignobile sul banco degli imputati, quasi come se Ciro Esposito era responsabile o i tifosi del Napoli erano responsabili. Quindi adesso ci vuole una prova di grande maturità, e per quello che posso pensare io credo che Napoli è matura per dare un segnale forte di civiltà e dimostrare con i fatti il no alla violenza. La ringrazio, grazie al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, le auguro buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, c'è la borsa e poi subito dopo parleremo di quello che sta succedendo in Lombardia. Lo avete sentito anche da strade in diretta, ci sono stati una serie di allagamenti e una serie di problemi, insomma, a Milano, in Brianza, in provincia di Bergamo. A tra un attimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lutto cittadino a Napoli per la morte di Ciro Esposito, il tifoso ferito a Roma prima della finale di Coppa Italia. Il sindaco De Magistris dice che la città ha sete di giustizia. Si temono vendette dei tifosi napoletani su quelli romanisti. Colpa dei giovani, dice Buffon dopo il flop degli azzurri. Il capitano difende i vecchi della squadra, mentre il calcio italiano riflette sul dopo Prandelli e sul dopo Abete. Merkel torna sul patto di stabilità, dobbiamo usarne sia i limiti sia la flessibilità, dice la cancelliera. Domani vertice per scegliere il presidente della commissione. Una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda la politica italiana. I deputati Alessandro Zan, Fabio Lavagna e Nazareno Pilozzi di SEL, Sinistra Ecologia Libertà, hanno appena formalizzato le loro dimissioni dal partito. Mentre, stando a quanto riferisce una deputata del PD, Silvia Costa, un europarlamentare del PD, alcuni eurodeputati del Movimento 5 Stelle avrebbero chiesto di entrare nel gruppo dei Verdi, lasciando il gruppo euroscettico del quale fa parte anche Farage. È il momento della borsa. Borse in diretta. Giornata negativa, FTSE MIB giù di 0,5%, FTSE All Share altrettanto, va male anche il resto d'Europa, anche peggio perché Parigi cede lo 0,72, Francoforte lo 0,42%, siamo più o meno sugli stessi livelli, e Londra 0,5%. Eleonora Micheli, Radio Corre il Sole 24 ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai va male la borsa di Milano? Preoccupano le tensioni in Medio Oriente e poi si sa, quando si avvicinano le vacanze estive i mercati sono più volatili e ovviamente gli investitori sono più guardinghi. Comunque c'è anche grande attesa per l'importante dato americano che verrà svelato nel primo pomeriggio relativo alla lettura finale del prodotto interno lordo nel primo trimestre. Per quanto riguarda i singoli titoli, brevi segnalazioni. Complessivamente bene i bancari: Banco Popolare più 1,16, Intesa San Paolo meno più 1,05, Popolare di Milano 0,5% di guadagno. In fondo alle stime invece, oltre a Monte dei Paschi che è ancora sotto aumento di capitale, meno 16,3%, c'è Buzzi Unice meno 2,7, c'è qualche motivo? Su Buzzi no, per quanto riguarda MPS venerdì si conclude l'aumento di capitale, poco fa i soci Fintech Advisory, la fondazione MPS e l'altro socio hanno detto che hanno sottoscritto l'aumento di capitale. Grazie ad Eleonora Micheli, Radio Corre il Sole 24 ore e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Simona Bordonali, assessore alla sicurezza, protezione civile e immigrazione della Regione Lombardia. Salve, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. La chiamiamo per la parte protezione civile, insomma, delle deleghe che ha. Per capire un attimo qual è la situazione, perché ci sono state piogge molto intense. Tra le altre cose è piovuto dentro la stazione centrale di Milano, sarà anche elemento da approfondire, visto che due anni fa l'hanno ristrutturata, ma ci sono stati problemi non solo in città ma un po' dappertutto. Ci può dare un quadro? Sì, il quadro sulla regione Lombardia, che voglio tranquillizzare gli ascoltatori, è assolutamente in questo momento sotto controllo grazie a tutti gli uomini e le donne della protezione civile e grazie ai vigili del fuoco che prontamente hanno cercato di tamponare e risolvere le maggiori situazioni di criticità. Fortunatamente in questo momento le precipitazioni sono sospese, quindi stanno dando la possibilità da un lato di intervenire e dall'altro lato ai fiumi che hanno causato maggiore criticità sono in attuale discesa e quindi sotto controllo. La situazione è stata critica soprattutto per tre aree. La provincia di Bergamo, dove c'è stata una colata di fango a Montedinese, una frazione di Alzano Lombardo, e quindi è una frazione che in questo momento risulta isolata, però già sul posto, come ho detto, sono presenti l'associazione di volontariato e quindi la situazione è in risoluzione, e anche in Val Brembo attraverso l'esondazione del torrente Quisa ci sono state criticità. Le maggiori però, ahimè, sono state appunto sia in provincia di Milano che provincia di Monza e Brianza. Purtroppo quando a Milano sono esondati sia il Seveso che il Lambro, sia il Seveso che il Lambro hanno dato delle difficoltà soprattutto nella via Valfurva in piazzale Istria. E però ripeto, la situazione in questo momento è sotto controllo, e poi i due fiumi, sia Seveso che Lambro, sono in fase di discesa e quindi ciò ci sta tranquillizzando. Bene, immagino che non ci sia già una conta dei danni, evidentemente, no? Impossibile farlo così a caldo. No, in questo momento è impossibile, anche perché la situazione comunque ora è sotto controllo. Come ho ripetuto, le precipitazioni in questo momento fortunatamente sono concluse, però ci sarà una ripresa delle precipitazioni pomeriggio sera, soprattutto in bassa pianura sull'Appennino e le Prealpi, quindi attendiamo di vedere anche nei Siete in allerta? Si rischiano precipitazioni molto intense? Noi l'allerta come Regione Lombardia l'abbiamo già attivata nella giornata di ieri, e quindi già tutti i sindaci dei comuni lombardi erano stati allertati, a loro volta avevano allertato i gruppi di protezione civile, e quindi era già una situazione sotto controllo, perché c'eravamo già mossi, come è previsto che ci muoviamo quando ci sono queste situazioni che possono causare delle emergenze sul territorio. Grazie a Simona Bordonali, assessore sicurezza, protezione civile e immigrazione di Regione Lombardia. Le auguro buona giornata. Grazie. E buon lavoro, soprattutto a questo punto, a partire da stasera, visto che ci saranno nuove precipitazioni. Noi adesso ci occupiamo ancora di cronaca, ma per parlare di un'operazione che ha riguardato L'Aquila e la ricostruzione e il clan dei Casalesi. Ancora polemiche sulla ricostruzione dell'Aquila. Dopo le tangenti per chiese e palazzi storici, ora al centro delle indagini ci sono gli edifici privati. Ad infiltrarsi dentro i cantieri aquilani, il clan dei Casalesi, che nella ricostruzione ha riconosciuto un'opportunità per gli affari illeciti. Stamattina sono finiti in manette 7 imprenditori, ma il giro di persone coinvolte potrebbe essere più grande. Le accuse sono di estorsione aggravata dal metodo mafioso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila, Giovanni Castrignano. Però il sistema consentiva agli imprenditori di prendere un gran numero di commesse proprio in virtù del fatto della manodopera assicurata dalle imprese originarie della provincia di Caserta. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora con la cronaca, e adesso in Puglia. Sentiamo. La sparatoria, l'inseguimento, le macchine incendiate. È mezzanotte quando il comando di uomini tutti italiani incappucciati e vestiti di nero assalta il caveau dell'azienda di vigilanza NP Service di Foggia. Dopo aver bloccato la zona con delle macchine, gli uomini del comando sventrano la parete dell'edificio con un escavatore e forzano la cassaforte per prendere il denaro. Giuseppe Annicchiari, dirigente della squadra mobile di Foggia. Dopo che hanno iniziato a sventrare il caveau, contestualmente altri loro complici hanno dato alle fiamme i veicoli che erano stati posizionati lungo le vie d'accesso alla zona, in modo tale da impedire l'ingresso da parte delle forze di polizia. Non possiamo dire il numero preciso dei componenti del comando, ma sicuramente saranno stati più di 10 persone. Sorpresi dalla polizia, i componenti del comando sono fuggiti senza prendere il denaro e durante l'inseguimento hanno fatto fuoco con dei Kalashnikov contro le volanti. Nessun ferito tra gli agenti, ma Nicchiarico non esclude che tra i criminali ci siano dei feriti. Una zona pericolosa, quella del Foggiano, dove poche ore dopo l'assalto al caveau la polizia ha arrestato 9 persone appartenenti ad un'associazione per delinquere. Contestualmente questa notte abbiamo eseguito 2 misure cautelari a carico di 2 gruppi criminali che erano specializzati in rapine e furti in depositi. Al momento sembra che non ci siano collegamenti tra le 2 associazioni criminali. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. At my direction we have significantly increased our intelligence, surveillance and reconnaissance assets. Barack Obama, il presidente americano, lo avete sentito, cerca di recuperare in materia di politica estera. Ha avuto una telefonata con il presidente russo Putin, ma il pubblico americano, l'opinione pubblica americana non è convinta. Un sondaggio che abbiamo avuto ieri dice che il 58% degli americani è contro la gestione della politica estera da parte della Casa Bianca di Barack Obama. Si tratta del livello minimo da quando Barack Obama è alla Casa Bianca. In effetti, come diciamo spesso, le cose sul fronte della politica estera non stanno andando troppo bene, ce ne occuperemo nei prossimi giorni per fare un punto di quel che succede in Iraq, quel che succede in Siria. Ma sul fronte interno, la frontiera americana, di cui vi parlo spesso, ci offre degli spunti invece più interessanti su più fronti, su quello tecnologico, su quello economico. Cominciamo da quello economico. Intanto un annuncio bomba, un annuncio dato, come dire, sottotono dall'amministrazione Obama, ma che è una svolta per il settore energetico. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling. Il petrolio, questo è un estratto dal film Il Petroliere, ma insomma, nella fantasia popolare di tutti, il petrolio e l'America hanno sempre avuto un ruolo straordinario. Pensate a Dallas, allo storico serial televisivo. Insomma, il petrolio è simbolo di ricchezza, è simbolo di ricchezza americana. Torna ad essere con lo shale gas. Ma la novità storica, secondo me, è che da ieri gli Stati Uniti hanno autorizzato le compagnie petrolifere americane, sono partite soltanto con due per ora, ad esportare il greggio. È la prima volta in 40 anni che questo succede. Erano state introdotte delle norme molto severe per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti dal punto di vista energetico, ma con le scoperte dello shale gas, con le nuove tecnologie che hanno consentito l'estrazione dalle zone geologiche shale sia di gas che di petrolio, le cose sono completamente cambiate. Sappiamo che gli Stati Uniti sono diventati esportatore netto di petrolio, nel senso che non hanno più bisogno di importare, ma non potevano esportare il gas, non potevano esportare il petrolio. Si è trovata al Dipartimento al Commercio una regola molto particolare che ha consentito all'amministrazione Obama di evitare di dover andare in Parlamento per avere delle approvazioni per cambiare questa legge, e dunque la questione è molto tecnica. Si usa la private ruling, che è una regola molto particolare di una divisione del Dipartimento al Commercio, la divisione che si occupa di sicurezza e di imprese, di imprenditoria. Questo petrolio che potrà essere esportato è un petrolio greggio ultraleggero che ha già un minimo di raffinazione. Questo ha consentito al Dipartimento al Commercio di autorizzare questa esportazione. Le due aziende sono la Pioneer Natural Resources di Irving in Texas e la Enterprise Products Partners di Houston, due aziende dunque texane. L'impatto geopolitico sarà forte. Pensiamo a quanto la Russia ha ricattato l'Europa con la minaccia di chiudere i suoi rubinetti. Ci sarà un impatto economico. I grandi armatori erano un po' sperduti perché non potevano usare le loro petroliere per trasportare il greggio come facevano un tempo, per esempio dall'Africa verso l'America. Cercavano il movimento inverso. Ecco, a questo punto potrà esserci, e armatori anche italiani potranno esportare dagli Stati Uniti verso l'Italia. Svolta dunque importante. Passiamo alla frontiera tecnologica. For about the past 10 years we've been working on bringing digital mammography. Prima notizia: c'è una nuova tecnologia che consente di fare le mammografie in 3D. È una svolta importante anche questa, è un'innovazione tecnologica importante. Ne parleremo in modo più diffuso in una prossima puntata. Altri sviluppi importanti di ieri riguardano la tecnologia dell'elettronica, dell'high tech. Intanto l'iPhone, ci sarà un nuovo iPhone più grande di 5,5 pollici che sarà molto più simile al Samsung, un po' più piatto, e quindi un prodotto che andrà a fare concorrenza sul mercato degli smartphone, soprattutto in Asia. Ci sarà anche un nuovo modello da 4,7 pollici. La produzione comincerà in Cina in luglio, in ottobre dovrebbe essere disponibile. È una sfida tutta personale dell'amministratore delegato Tim Cook, che con questa innovazione di fatto chiude il periodo, anche sul piano simbolico, il periodo di gestione di Steve Jobs, e passa ai suoi prodotti del tutto nuovo. Sempre sul fronte dell'elettronica c'è un dibattito interessante che approfondiremo anche questo più avanti, ma dobbiamo farlo perché insomma sono nuove tecnologie che cambiano il nostro modo di vivere. la Microsoft sta studiando un nuovo modo di costruire i computer già in una fase sperimentale piuttosto avanzata, che si chiamano i computer che poggiano sulla teoria dei quanti. Ci sono anche altre aziende che lo stanno facendo, ma proprio ieri abbiamo avuto questa notizia dalla Microsoft. Cerco di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, perché comporta l'applicazione di una, come dire, di una teoria fisica dell'utilizzo di particelle che possono muoversi in modo parallelo, mentre invece finora il modo di sfruttare l'informatica era in modo seriale, cioè si parte da un problema, si risolve quello, se ne risolvono altri, invece di risolverli in modo parallelo. Potrebbe essere una rivoluzione, siamo ancora agli inizi. Nel frattempo la Hewlett-Packard ha messo a punto The Machine, che è un supercomputer ormai minuscolo, che consente di ridurre del 77% gli oneri di gestione dell'information technology, dell'IT, di tagliare fino all'89% l'energia, di risparmiare l'80% da un punto di vista di spazio, perché questo computer è piccolissimo, il tutto condito da una semplicità d'uso che non ha uguali rispetto ai sistemi di supercomputer attuali. L'America, insomma, potrà avere difficoltà sul fronte della politica estera, ma continua a darci l'esempio sul fronte del progresso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. E eccoci alla canzone del giorno. Alla Clinton Global Initiative, Hillary ha annunciato un progetto chiamato Job One per promuovere il lavoro giovanile in partnership con società come JP Morgan, Microsoft, Marriott. L'idea è di offrire programmi di training per ragazzi fra i 16 e i 24 anni che hanno lasciato la scuola ma sono disoccupati. Per me, ve l'ho già detto altre volte, è una manovra che conferma la decisione di Hillary di candidarsi alle presidenziali del 2016. Ma la decisione ufficiale non c'è, molti continuano a chiederli. Fra questi chi? Beh, Katy Perry, la grandissima cantante americana, che ha twittato: Hillary, se ti candidi, ti scrivo una canzone. E dunque a Katy Perry dedichiamo la canzone del giorno e a Hillary Clinton, che molti pensano farà dei fuochi d'artificio. Di Katy Perry, Fireworks. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show them what you work, make them go a New York. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto, perfetto giorno, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24. A tra poco con GR24, effetto giorno torna domani alle 13.